Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo pronti per una nuova puntata, staremo insieme fino a mezzogiorno e intanto andiamo subito a sentire i temi del nostro sommario. La saggezza della nonna sotto la lente della ricerca scientifica. Verità o bufala? Mani sudate, i rimedi ci sono. Se aspetti un bambino, non mangiare per due, mangia bene. Chi di noi, almeno una volta nella vita, non si è affidato ai rimedi della nonna? Bene, oggi parleremo di tutte quelle cure, rimedi, suggerimenti dettate vuoi dalla saggezza popolare, vuoi dal buon senso o dall'amico che la sa sempre lunga, per capire quelli che funzionano e quelli che invece sono inutili, un po' delle bufale o addirittura dannosi. In studio qui con me due esperti, il dottor Lorenzo Moia e il dottor Moschetti. Buongiorno. Buongiorno. Un coro di buongiorno. Il dottor Moia e il dottor Moschetti sono due ricercatori del Centro Cochrane Italiano, che è un'unità dell'Istituto Mario Negri di Milano, e oggi sono, un po' come tutti gli esperti che lavorano in questo Centro Cochrane, una sorta di investigatori. Possiamo dire così, insomma, Sherlock Holmes e Watson. Chi dei due vogliamo già definire i ruoli? Dottor Moia, lei che si sente? Non lo so, non saprei chi scegliere. Direi che il dottor Moia è Sherlock Holmes. Sì. Io mi sento... prendo volentieri il ruolo di Watson. Che mi è sempre piaciuto, così, vero? Sì. Mai troppo... Troppo sul pezzo, troppo esposto, come dire. Misurato. Sì. Ma mi piace di più quasi una visione anche un pochino più moderna, non c'è più la lente d'ingrandimento. Oggi siamo in grado di andare a cercare le prove a favore o contro gli interventi con tecniche più moderne. Cerchiamo negli studi non solo condotti qua in Italia, ma anche condotti in altri paesi, gli Stati Uniti, in Inghilterra, ma anche la Cina, nel mondo globale, là dove ci sono 1 miliardo di persone e tante possibilità, quindi di capire se gli interventi funzionano. Noi andiamo e ci mettiamo d'accordo quindi con altri colleghi che arrivano da questi paesi, l'India, e cerchiamo di mettere insieme tutte le prove a favore e contro i diversi interventi. Abbiamo avuto qualche difficoltà nell'intervistare le nonne cinesi, però... Le nonne cinesi non rispondono subito, ci mettono, no? Un po' di calma, ma alla fine, giustamente stimolate, rispondono. Noi invece ci ripercorriamo un po' la saggezza delle nostre nonne e io direi, se voi siete d'accordo, di iniziare un po' da una giornata tipo. Per ogni momento della giornata le nostre nonne avevano un consiglio da dare, un rimedio da suggerire. Il mattino ha l'oro in bocca e questo, secondo la tradizione, è il momento migliore per consumare la classica spremuta d'arancia, che poi a mezzogiorno diventa d'argento, alla sera addirittura di piombo. C'è un'evidenza, dottor Moschetti, di questo? O insomma, questo lo dice il buon senso, la tradizione. Il buon senso del medico invece che cosa dice? Dunque, credo che in letteratura, soprattutto negli studi di cui noi ci occupiamo, di non aver mai visto nessun tipo di esplorazione del ruolo della spremuta d'arancio nella giornata tipo. Però è inutile dire che la spremuta d'arancia fa bene, indipendentemente da quello che contiene, è fresca. Non ci sono evidenze che la sera faccia peggio che la mattina. Certo che se una persona soffre di gastrite, ha una digestione un po' lenta, probabilmente è meglio che l'assuma durante il giorno che la sera. Però credo che sia persona dipendente, cioè ognuno deve un po' capire come sopporta certi alimenti. Quindi le nostre nonne mettevano dei paletti che invece in realtà non ci sono. Ognuno può fare quello che vuole. Sì, secondo me sì, nel senso che io la bevo sempre la spremuta, cioè spesso bevo la spremuta d'arancia la sera. Indipendentemente dall'ora. Proseguiamo nel corso della giornata. Dottor Moia, se a metà mattina, forse perché la spremuta non aveva avuto effetto, non si era mangiata abbastanza, eccetera, c'è un calo di energie, si suggerisce di solito un cucchiaino di zucchero che dà subito la carica, ci mette di nuovo in pista. Buon suggerimento oppure anche qua c'è qualcosa da dire? Ma sicuramente un cucchiaino di zucchero sciolto nell'acqua è quello che ci dà una rapidissima fonte di energia e quindi in pochi istanti recuperiamo. È alla base anche del fatto che gli sportivi durante i loro esercizi, quando si affaticano, prendono sempre delle caramelle o degli integratori che hanno un fortissimo contenuto di zucchero. Però quello che in realtà ci sarebbe bisogno è di un più lento e graduale rilascio di questi zuccheri e quindi evitare delle bombe come, tra virgolette, uno, due o tre O la cucchiaine bustina. o la bustina, ma invece mangiare una fetta biscottata, qualcosa che tenda a rilasciare più lentamente. In questo senso i carboidrati più complessi come anche la pasta sono ovviamente qualcosa che ci aiuta e ci permette di durare per più a lungo. Quindi una fetta biscottata, un trancetto di torta. Esattamente, Siamo a soprattutto metà. se della nonna. Soprattutto se la nonna, siamo da metà mattina, continueremo con l'ora di pranzo, poi esploreremo, andremo anche nel mondo delle erbe e quindi parleremo di camomilla, di pericum, di echinacea. Cercheremo quindi di sfruttare i nostri due investigatori per sapere se quanto ci viene detto, suggerito e soprattutto quanto leggiamo spesso o ascoltiamo è confermato dalla scienza oppure è quasi un modo di dire. Restate con noi. Una mela al giorno. Mi stringe la mano. Ecco, è proprio come pensavo. Perché, come pensava, è successo qualcosa che non La va? sua postura, curva, incerta, esitante. Il suo sguardo, perennemente alla ricerca di una risposta tra i piedi del suo interlocutore. Il suo timbro di voce, debole e tremolante. Ma soprattutto la sua stretta di mano, indecisa, arrendevole. È l'anticamera della sconfitta. Quel giornalista non la citerà mai nel suo articolo. Anzi, sono sicuro che si sarà già completamente dimenticato di lei. Ma veramente? Veramente? Ma certo, la stretta di mano è fondamentale. Il suo biglietto da visita, stia a vedere. Stretta di mano rapida, decisa, sicura, è sintomo di sicurezza e autostima. Ma se non la sciolgo per tempo, diventa una stretta di mano infinita, sintomo di invadenza, capisce quello che intendo? Certo, però io questa stretta ce l'ho ormai da 30 anni, come faccio a cambiarla? Mi dà di lavorarci, in questo ambiente si rischia di perdere tutto per una stretta di mano sbagliata. Quante volte è stato promosso da quando è qui? Mai. E questo non le dice niente? Bene, tutto questo potrebbe essere vero, ma non tiene conto di una variabile importante. Ci sono persone che non stringono la mano in modo deciso e fiero, come il loro carattere li porterebbe a fare, perché sono frenati dal sudore. Offrire una mano sudaticcia crea disagio e si preferisce quindi scivolare via, far durare il meno possibile la stretta. Ne parliamo con la dottoressa Grazia Primavera dell'IDI, l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a voi. Dottoressa, conferma, la mano sudata blocca. Beh, sicuramente sì, perché la mano comunque è un organo di contatto con l'esterno che ci crea qualche problema, però va considerato che il sudore della mano è un sudore che, in quanto prodotto dalle ghiandole acrine, è costituito per il 90% da acqua, quindi è acqua, non emana cattivo odore come ad esempio il sudore di altre zone. E poi comunque il sudore è qualcosa di fisiologico perché è fondamentale per la termoregolazione del nostro organismo. Dottoressa, si suda anche per l'emozione. Quando siamo particolarmente agitati, emozionati, come ad esempio prima di un colloquio di lavoro, è normale che la nostra mano diventi un po' sudaticcia. Normalmente si comincia a sudare a partire dai 18 gradi, però esistono delle persone che proprio per una caratteristica anche genetica sudano in maniera esagerata, soprattutto sotto stress, quando sono particolarmente emozionate, e questo in questi casi diventa particolarmente invalidante. Dottoressa, però ci sono diverse soluzioni che Certo. naturalmente variano in relazione all'entità del problema. Sì, la cosa più semplice da fare è quella di provare gli antitraspiranti. Generalmente si tratta di alcuni prodotti che contengono dei sali di alluminio. È meglio cercare di utilizzare quelli in crema perché esistono anche delle soluzioni alcoliche che però potrebbero risultare allergizzanti, irritanti. Queste sono delle sostanze che non bloccano completamente le ghiandole come si pensa, ma moderano la fuoriuscita del sudore. Ma dottoressa, si devono dare più volte nel corso della giornata, perché le mani si lavano di frequente, certo, almeno si dovrebbero. Poi ci sono anche delle ricerche, magari ne parleremo con i nostri esperti della Cochrane, che dicono che insomma gli italiani almeno si lavano poco le mani, ma questa è un'altra storia. Bisogna ripetere questa applicazione? Esatto, infatti soprattutto le prime volte che si utilizzano questi prodotti l'applicazione va ripetuta ogni qualvolta si lavano le mani. E là dove risultano efficaci poi eventualmente si può diradare il numero delle applicazioni, proprio perché devono mostrare la loro efficacia. Dottoressa, c'è anche una tecnica che utilizza la corrente elettrica, mi spiega che cos'è? È la iontoforesi. Sì. Praticamente si tratta di dei piccoli apparecchietti che possono essere anche acquistati direttamente dalle persone che hanno questo tipo di problema, che emettono una corrente continua a bassa intensità, la quale viene veicolata alle zone che devono essere trattate grazie all'acqua. Quindi il trattamento prevede l'immersione in acqua delle mani in questo caso, e passa questa corrente, e il trattamento di solito dura, soprattutto le prime volte, parecchio, può durare pure un'ora, e sono richieste molte sedute, almeno 7-10 applicazioni per cominciare a vedere il risultato, qualora appunto ci sia la risposta. Alcune persone si trovano bene, altre ritengono che questo tipo di trattamento sia piuttosto fastidioso, perché la sensazione avvertita è quella di un pizzicore che è variabile a seconda della potenza della corrente che viene utilizzata. Invece, dottoressa Primavera, se la sudorazione è eccessiva, o credo anche il disagio che crea particolarmente forte, si passa alle iniezioni di tossina botulinica. Esatto, esattamente. Che cosa fa il botulino alle ghiandole sudoripare? Praticamente blocca il recettore nervoso alle ghiandole sudoripare, per cui lo stimolo a sudare viene interrotto. Si tratta di delle punturine appunto con la tossina botulinica di tipo A, che vengono fatte rigorosamente, devono essere fatte da un medico su tutto il palmo della mano, comprese le dita, e questo ha un'efficacia che nel tempo dura al massimo 6 mesi, però insomma diciamo che per questo periodo di tempo il paziente sicuramente sarà molto soddisfatto. Dottoressa, controindicazioni? Controindicazioni non ce ne sono, assolutamente. Quindi diciamo che se ben fatta, come tutte le tecniche, i presidi medici, insomma, se ben utilizzato, problemi particolari non ce ne sono. Dottoressa, la saluto con una bella stretta di mano. Indipendentemente se il nostro palmino è sudato o meno, una bella stretta di mano per ringraziarla di essere stata con noi. Le auguro una buona giornata, grazie. Grazie, grazie a voi. Pronto soccorso. Sono qui in studio con me Sherlock Holmes e Watson. In realtà sono due medici, noi li abbiamo soprannominati così perché sono due ricercatori della Cochrane, che quindi tra l'altro è un'unità dell'Istituto Mario Negri di Milano, ma mette al lavoro questi esperti per sfogliare tra le varie indagini e ricerche, per valutare quando uno studio è efficace o quando invece non lo è, giusto? Esattamente, si prendono tanti studi e si mettono insieme, e alla fine quello che si ottiene è una fotografia unitaria. Anziché avere una serie di prove molto spezzettate, si ottiene quella che è una misura, che può essere a favore del farmaco o invece può essere di una sostanziale incertezza, o ci può dire che il farmaco, l'intervento, fa più danno che beneficio. Quindi voi siete contro tante teste e tante idee, come si dice spesso, no? Ecco, ma io volevo ritornare al... Tra l'altro abbiamo una mela al giorno, Una mela al giorno sicuramente fa bene. Sicuramente. Anche ascoltare una mela al giorno fa bene, ma anche mangiarla, perché toglie il medico di torno. Io qua dovrei mandarne due, perché di medici ne ho due, ma fa bene perché è la frutta in generale, o la mela ha qualche cosa di speciale? Non sono un melologo, lo ammetto. La mela credo faccia bene perché è un frutto comunque ricco di acqua e ricco di vitamine. Tra queste c'è anche la vitamina C, come avevamo. E sulla vitamina C si apre un libro, grande capitolo. Di vitamina C sappiamo che è una vitamina amica. Ma di vitamina C se ne parla un po', a proposito del tante teste tante idee, se ne parla tanto, e alla fine che cosa dice la letteratura scientifica? La letteratura scientifica dice che la vitamina C in generale non è particolarmente efficace, o meglio, non è più efficace del placebo, che vuol dire del nulla, dell'acqua, nel prevenire il raffreddore nella popolazione normale. Non è nemmeno troppo efficace nel ridurre la sintomatologia da sindrome da raffreddamento una volta appunto che il raffreddore ce lo siamo presi. E questo è abbastanza ben documentato, perché ci sono addirittura 30 studi per un totale di 11.350 pazienti che sono stati sottoposti a profilassi con vitamina C, ed effettivamente quello che risulta è che nessuno dei pazienti sottoposti a terapia con vitamina C ne ha guadagnato di fronte a un futuro raffreddore, mentre c'è un piccolo sottogruppo di pazienti che sono gli sportivi, sono i maratoneti, gli sciatori, i militari, per cui è stato dimostrato un importante effetto della vitamina C nel prevenire il sindrome del raffreddamento. Probabilmente soggetti sottoposti ad esercizio estremo e al freddo rispondono alla vitamina C, ma addirittura si riduce del 50% la probabilità di prendere un raffreddore se si assume vitamina C durante l'esecuzione di sport intensi o di esercizio fisico intenso. Quindi un consiglio per gli sportivi. Dottor Moia, quando voi parlate di vitamina C, parlate della vitamina che noi assumiamo con gli alimenti o parlate di integratori a base di vitamina C? Parliamo in questo caso di integratori, quindi di, come dire, una serie di pillole che vengono prese e diciamo che appunto nella stragrande maggioranza dei casi non ci aiutano a prevenire o a curare il raffreddore, solo in una piccola parte della popolazione, quella degli sportivi, che invece si sono dimostrate efficaci, sono comunque degli integratori. No, sono assolutamente degli integratori, perché questi sono i risultati di studi clinici, quindi non sono state somministrate tot arance al gruppo. Okay. Allora, noi proseguiamo, abbiamo lasciato i nostri ascoltatori quasi all'ora di pranzo e qua ci stiamo quasi arrivando, insomma siamo in zona fornello. Le nostre nonne suggerivano di alzarsi da tavola, loro parlavano di tavola perché non c'era il fast food, non c'erano i panini, ci si sedeva a tavola con le gambe appunto sotto il tavolo, e però si raccomandava di alzarsi un po' prima di essere sazi, forse perché non c'era granché da mangiare, ma questo ha fruttato molte cose per la nostra salute. Dottor Moschetti, che dice? Sì, credo che sia un consiglio utile questo, soprattutto al giorno d'oggi, dove invece siamo di fronte ad un'abbondanza di cibo, sicuramente non ci manca. Alzarsi non completamente sazi aiuta sicuramente a non passare un pomeriggio sul divano, o comunque sognando il divano, ecco. E questo perché ci sono diversi segnali che dicono al nostro cervello che noi siamo sazi e quindi possiamo smettere di mangiare. Alcuni di questi sono molto diretti, come la dilatazione dello stomaco, altri invece hanno bisogno di tempo, come per esempio l'assorbimento di grassi o di proteine. C'è effettivamente un tempo di latenza, per cui il rischio è che noi continuiamo a mangiare anche quando in realtà i segnali di sazietà sono già partiti, non sono semplicemente arrivati, quindi mangiamo di più di quanto abbiamo bisogno, sovraccarichiamo. E poi si paga un conto salato, il nostro girovita sta aumentando sempre di più, certo. Nostro, di noi donne, ma anche vostro. Pensa che nei paesi molto caldi è uso non avere due o tre pasti abbondanti, ma ci sono tanti pasti che vengono spezzettati durante la giornata, perché immaginate di sovraccaricarvi di alimenti nei posti molto caldi o nella cucincina, lì diventa una grande fatica poi, perché il caldo, la sudorazione, tutto diventa più intenso e la giornata si fa davvero difficile. Ora in questi paesi dividono e mangiano molto spesso piccoli pasti, ma molto frequentemente durante il giorno. È un consiglio che possiamo dare anche noi? Beh, sicuramente quando fa caldo anche qui in Italia. Speriamo che arrivi questo caldo. Adesso vogliamo parlare dell'iperico, l'erba di San Giovanni? C'è una letteratura che si è occupata proprio di questa erba, suggerita anche come erba contro la depressione, dottor Moschetti. Sì. Poi ci sono state, allora, sembrava un po' un'erba capace di risolvere in modo significativo e quindi con senza l'ausilio anche di farmaci il problema nelle forme naturalmente di depressione un po' lieve. Poi c'è stata tutta una letteratura che invece ci metteva in guardia. La letteratura al momento è abbastanza chiara, nel senso che ci sono una trentina di studi randomizzati per un totale di circa 6.000 pazienti che hanno confrontato l'iperico sia contro il placebo e quindi contro l'acqua fresca, sia contro le terapie farmacologiche antidepressive, e effettivamente l'iperico è risultato essere più efficace del placebo e di pari efficacia rispetto alle terapie antidepressive, diciamo classiche. Negli studi clinici non sono stati trattati pazienti con depressioni maggiori molto importanti. Sì. Quindi infatti, si tratta sempre di depressione lieve o moderata. Però effettivamente sono poi quei disturbi dell'umore che vengono normalmente trattati nella medicina generale. Sono la depressione più comune. Esatto. Proprio. E l'iperico quindi è efficace e quindi, come tutti i farmaci efficaci, ha anche effetti collaterali. Per cui bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. E ha anche delle interazioni farmacologiche. Possiamo dirne alcune? Le interazioni farmacologiche sicuramente a cui si deve prestare più attenzione è con gli altri antidepressivi, oppure con farmaci che inducono il metabolismo epatico e che possono in qualche modo, come dire, interagire per esempio nell'eliminazione. Per cui succede che due farmaci presi nello stesso momento possano aumentare la loro concentrazione ematica proprio perché, come dire, competono nella fase di eliminazione. Quindi il consiglio generale che possiamo dare, soprattutto perché noi che non siamo addetti ai lavori, quando parliamo di erbe, pensiamo a qualcosa che fa comunque bene perché arriva dalla natura, o meglio, se non fa bene, male non fa. In realtà i medici ci insegnano che questo non è proprio, non succede sempre così, anzi vanno presi, se funzionano possono avere anche degli effetti collaterali. Quindi vanno trattati proprio come dei farmaci. Vanno trattati. C'è un problema negli studi clinici e nella letteratura che esplora l'efficacia delle erbe. Il problema sta proprio nei preparati, che difficilmente sono omogenei. Mentre una pillola ha una concentrazione precisa di principio attivo, il preparato naturale può oscillare molto. Io passerei al biancospino, dottor Moia, perché anche di lui se ne sono scritte tante. Allora, è vero che è un rimedio buono per il cuore? È vero, è una pianta, intanto è una pianta molto diffusa anche nei nostri boschi, molto bella, con dei fiori bianchi, delle bacche rosse, ed è una vera e propria pianta medicinale, per questo è diventato un rimedio della nonna, una pianta comunque centenaria di cui si erano già accorti molti anni fa che aveva delle caratteristiche positive per il distretto cardiaco e per le patologie circolatorie. Si può assumere come estratto alcolico la tintura madre, e viene detto normalmente un tranquillante. In realtà che cosa fa il biancospino? Negli studi, perché è stato proprio studiato in studi in cui i pazienti prendevano il biancospino oppure la pillola di acqua fresca, si è scoperto che incrementa la capacità del cuore di pompare sangue e quindi ci dà, come dire, agio, dà più forza al cuore, e però mantiene una pressione, la pressione sanguigna, quella che ci misura il medico e che vuole sempre che sia bassa, mantiene una pressione abbastanza bassa e quindi aiuta proprio il cuore. Efficace, quindi qualche effetto collaterale. Ogni tanto può dare dei giramenti di testa o delle vertigini. E la cosa strana è che non si sa bene perché è efficace il biancospino. È un po' una magia. No, non è che è una magia, è che queste piante, questi frutti delle piante spesso contengono centinaia di piccole molecole al loro interno ed è difficile studiarle singolarmente. Tutte. Quello che agisce in realtà è l'insieme, come dire, la magia della natura che ha messo in questo insieme di molecole e che è quello alla base dell'azione positiva. Si pensa che i flavonoidi e le procianidine siano i due elementi che spingono maggiormente l'efficacia del biancospino. Dei flavonoidi sentiamo spesso parlare quando parliamo di capillari, mirtilli, frutti di bosco, sono ricchi di flavonoidi, sentiamo dire così, e quindi aiutano la circolazione, evitano anche la formazione di piccole venuzze capillari, le angiectasie, come le chiamate voi, sembra uno scioglilingua, sì, ma sono quelle venuzze che a noi non piacciono. Sono dei vasoprotettori, direi, in generale. E quindi ovviamente aiutano la salute dei vasi, diciamo dei vasi venosi. Nelle donne sono molto importanti perché i vasi venosi sono quelli che causano poi tutta la problematica del capillare, sì, della vena varicosa, della pesantezza, l'arto inferiore, del polpaccio gonfio, la caviglia gonfia, il dolore, eccetera. E questo funziona. Funziona, non c'è un effetto drammatico enorme del flavonoide. Sì, positivo, lei dice. Sì, diciamo che sì. Drammaticamente positivo, ecco. Sì. Abbiamo bisogno di grandi numeri per vedere un piccolo effetto, però è una sostanza naturale che se assunta con la frutta tendenzialmente non fa male. E quindi perché un piccolo effetto c'è, perché no? Io dai flavonoidi salterei all'echinacea, perché voi mi avete smontato un po' la vitamina C, ma smontato per modo di dire, perché comunque rimane sempre un'alleata del nostro benessere, soprattutto se uno fa il militare, il maratoneta o lo sportivo. Diciamo che se va a sciare può mangiarsi tranquillamente un sacco di frutta che protegge. Che gli fa bene, certo. Invece questa echinacea può essere un'alternativa alla vitamina C? Cosa dicono gli studi? La storia dell'echinacea è una storia molto interessante. Intanto è una pianta che è originaria del Nord America, ma che ha attecchito molto bene qua in Europa, ed era già famosa tra gli amerindi del Nord America, che sono quelli che vengono chiamati in maniera poco elegante i pelle rossa, che li utilizzavano per curare le ferite dalle piaghe della pelle, le ferite delle frecce, i morsi, le ferite degli indiani, i morsi dei serpenti. E invece oggi viene utilizzata molto anche su consiglio del farmacista per curare il raffreddore. Perché adesso gli indiani utilizzano il miele. Esatto. Sono passati. Anche sul miele dovremmo poi dedicare una puntata, perché c'è chi ne parla come un rimedio assolutamente efficace, c'è chi invece mostra delle perplessità. Intanto vi do già il compito per la prossima volta, ma tornando alla nostra echinacea. Tornando all'echinacea, per il raffreddore è utile ed è divertente capire come possono funzionare anche le sperimentazioni, perché dobbiamo prendere spesso dei volontari sani in cui non abbiamo il raffreddore, sono sani. Come facciamo a indurre il raffreddore? Quindi gli sperimentatori si inventano delle cose, chiudono per esempio questi volontari sani in una stanza con qualcuno che invece ha il raffreddore, che deve fare da untore. Sì, chiamatemi perché io ce l'ho sempre, vengo a fare l'untore. Invece in altri casi dei ricercatori più cattivi l'hanno direttamente inoculato il virus che del non è raffreddore. Una parolaccia. Sì. Con una punturina hanno dato del virus, l'hanno messo direttamente nel corpo dei volontari sani. Loro e quindi lo hanno sanno, visto. Vero, loro i volontari. Lo sanno, hanno firmato un consenso informato. Ah, ecco. Certo. E l'echinacea si è vista che riduce l'incidenza di raffreddore, cioè quante persone poi sviluppano il raffreddore, e accorcia il raffreddore di quasi un giorno e mezzo. Il raffreddore non è una patologia grave, è una patologia che ci affligge magari per 3 o 4 giorni, e comunque accorciarlo quindi di un giorno e mezzo è qualcosa di positivo. Fa comodo, funziona anche con il raffreddore primaverile, secondo voi? È un raffreddore diverso, se intende per raffreddore primaverile quello allergico, non lo so. Non sappiamo. Io personalmente non lo so. Possiamo informarci? Certamente. Certo. Sherlock Holmes e Watson, ci sentiamo per la prossima volta, sicuramente il miele.